Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, continueremo a raccontare gli stati generali dell'economia, oggi la volta del mondo agricolo da un lato in mattinata e poi nel pomeriggio del mondo che rappresenta il settore turistico. E quinta giornata, ieri come abbiamo raccontato e come oggi presente su tutti i giornali, era stata la giornata in primo luogo della Confindustria nel mondo delle imprese. E anche oggi varie dichiarazioni da Coldiretti, da Confagricoltura, da chi ha partecipato appunto alla mattinata, e poi il grande malato. Allora, tutti stanno male in questo periodo, tutti i settori economici stanno male, però indubbiamente tra chi sta peggio vi è il settore del turismo, assieme, per turismo intendo dire sia il turismo in senso diretto, strutture turistiche, che tutto ciò che vi ruota attorno, ma anche la cosiddetta Horeca, cioè hotel, ristoranti e catering. In alcuni casi si è a zero nei fatturati come il catering, ma anche sugli hotel e ristoranti le cose non è che vadano molto meglio. Oggi appunto la volta del settore turismo e cultura. Parleremo di questo, parleremo però anche di un tema che tutto si può definire tranne che nuovo. Forse, se vogliamo vederla in maniera un po' ironica, il fatto che torniamo a parlare di Alitalia vuol dire che l'emergenza è finita, cioè torniamo su temi classici, ahimè, di questo programma. Perché lo dico? Perché si va alla stretta finale, dovrebbe chiamarsi Alitalia TAI, Trasporto Aereo Italiano. Nulla a che vedere con la TAI, intesa come la compagnia aerea cinese, thailandese con l'H in mezzo, e però c'è ancora incertezza su chi la guiderà. Sembra che vi sia stato un veto su Lazzarini, che però è molto amato dentro l'azienda per le sue competenze. Spero che non sia un veto sull'appartenenza politica di Fabio Lazzarini, che noi abbiamo personalmente conosco, era numero uno degli Emirates. So che in Alitalia è molto apprezzato per, ripeto, la competenza e come entra anche in maniera tecnica nei problemi. Spero che il veto non sia di carattere politico, spero che si vada a valutare veramente le competenze, non come abbiamo visto in alcuni casi in questi anni, anche perché di tutto abbiamo bisogno che di una Alitalia di nuovo da non riuscire a mettere in carreggiata. 11 anni di gestione privata, ma ci abbiamo messo adesso 3 miliardi dentro una flotta di oltre 100 aerei. Però questo è il tema classico. E poi l'altro tema che non riguarda quel Covid, ma è anche questo un tema classico di questo programma, la web tax. Sapete, abbiamo fatto una campagna lunga su quello che è il risparmio dei colossi del web, che vanno a diciamo fatturare, per dirla male, laddove più gli conviene, quindi in Olanda, in Irlanda, e anche se i ricavi si sviluppano in altri paesi. C'è una posizione molto simile di Francia, Spagna, Germania e Italia. C'è una posizione invece molto netta degli Stati Uniti, che hanno sospeso le trattative con i paesi europei per un accordo di web tax globale. Una lettera arrivata dal ministro dell'economia americano, segretario al tesoro Steven Mnuchin, ai ministri delle finanze di Italia, Gran Bretagna, Francia e Spagna, e quindi in maniera unilaterale gli Stati Uniti escono dalle trattative. L'OCSE vuole invece arrivare a una cosa molto ovvia, cioè la tassazione viene fatta nel luogo dove sono situati gli utenti e i consumatori. Vale per tutti, vale per un negozio d'abbigliamento, vale per un bar, vale per un... Non si capisce perché non debba valere per questi colossi del web, che tra l'altro, faccio notare, in molti casi non solo non hanno avuto grandi danni dal lockdown, in alcuni casi hanno avuto anche una grossa crescita durante il lockdown. Il primo nome che viene in mente è Amazon, ma non è solo quello. Mediobanca ha stimato che i colossi del web avrebbero risparmiato circa 50 miliardi di euro di tasse tra il 2014 e il 2018. La sola Microsoft 16 miliardi e mezzo, Facebook 6 miliardi e 300 miliardi. milioni. L'aliquota effettiva 2 anni fa delle multinazionali del web è stata del 14% contro un'aliquota ufficiale del 22,5%. C'è rammarico dell'Unione Europea, un'Unione Europea che domani invece, ma oggi non ci sono elementi per trattarlo, se non ricordarlo, domani c'è un Consiglio Europeo che dovrebbe avere al centro il Recovery Fund, anche perché ci sono dichiarazioni di Angela Merkel. Dal 1 luglio la Germania assume la presidenza per 6 mesi dell'Unione Europea, e quindi Merkel si augura che prima della pausa estiva si arrivi a un accordo sul Recovery Fund. Allora, adesso andiamo con le notizie in breve, però voglio annunciare una cosa, ma non è polemica, figuratevi, abbiamo fatto con Federico Taddia 2 giorni fa una bellissima serata, notte prima degli esami, come sempre in questa radio, per dare consigli e anche raccontare la maturità agli studenti e maturandi. È intervenuto il ministro Azzolina, per carità. Però con oggi io vorrei lanciare un tormentone senza polemica, ma visto che ci sono gli stati generali, benissimo, stiamo aspettando il DL semplificazioni che ritarda per gli stati generali, arriveremo alle proposte degli stati generali, però faccio notare che sul tema scuola siamo ancora alla proposta del ministro Azzolina di riaprire la scuola il 14 di settembre, proposta, cioè non sappiamo ancora se sarà accettata, se e come ci regoleremo con le elezioni amministrative in 5 regioni, quando i governatori Toti e Zaia hanno detto per favore non troviamo un'altra soluzione, l'ha detto anche Zingaretti, il segretario del PD, troviamo un'altra soluzione che non siano le aule scolastiche, però poi queste cose vengono lanciate e restano così. Tra coloro che sono sospese, sicuramente tra coloro che sono sospesi ci sono gli studenti e le famiglie che non sanno ancora bene quando e soprattutto come, visto che sembra un dettaglio sapere se l'orario sarà dilazionato, tanto chi se ne frega, è la stessa cosa accompagnare tuo figlio a scuola alle 7:30 o alle 9:30, no? Mica il lavoro preme, non si sa ancora se sarà appunto un orario dilazionato a seconda delle classi oppure mattina o pomeriggio, come i ragazzi andranno a scuola. Zaia oggi ha detto non pensiamo alle mascherine nelle classi, insomma. Iniziamo con oggi un conto alla rovescia che manterremo tutti i giorni per ricordare al ministro Azzolina, al governo Conte, che intanto quanti giorni mancano all'inizio sul posto della scuola e quante poche informazioni abbiamo su questo. Oggi è sabato, domani non si va a scuola. Oggi è sabato, è forse il giorno speciale. Allora, ministra Azzolina, è sempre sabato chiaramente da fine febbraio, nel senso che non si va a scuola, mancano 88 giorni all'inizio da lei annunciato della scuola, mancano 88 giorni, domani ne mancheranno 87, dopodomani 86 e via così, ma noi terremo aggiornato il conto, spero di non arrivare con questo appuntamento a almeno 8 senza notizie, però andiamo con le notizie in breve, va là. I dati americani sui sussidi di disoccupazione, 1,5 milioni, un po' in calo rispetto al 1,540,000 della settimana precedente, più basso del periodo peggiore, si arrivò a 2 milioni di sussidi, di richieste di sussidi a settimana, però il dato è peggiore delle attese, si scommetteva su 1,300,000 richieste di sussidi. Comunque attualmente ci sono 20,5 milioni di americani che stanno percependo il sussidio di disoccupazione. E veniamo all'Europa, dove c'è tutta il bollettino, diciamo, della Banca Centrale Europea. Netto ribasso sulle stime del PIL dell'area euro, meno 8,7% in media, nello scenario peggiore, quindi con il famoso ritorno della pandemia a novembre o ottobre, insomma secondo flusso, seconda ondata, meno 12,6%, e poi la frenata più forte vi sarà in Francia, Italia e Spagna, meno in Germania e nei Paesi Bassi. I disavanzi più consistenti nei bilanci sono previsti per Belgio, Spagna, Francia e Italia, che già, scrive la BCE, prima del Covid avevano un elevato rapporto debito pubblico-PIL. E ancora la BCE dice di essere pronta ad agire con il massimo impegno. Quanto al Recovery Fund, dice oggi il commissario all'economia europeo Paolo Gentiloni, dovremmo farcela prima dell'estate, nel senso prima della pausa estiva, non dico domani, forse a luglio, ma sono fiducioso che si possa arrivare a un accordo prima, diciamo, della pausa agostana, chiamiamola in questo modo. E Angela Merkel oggi, come anticipavo, ha detto la stessa cosa: spero in un accordo prima della pausa estiva per il Recovery Fund, è urgente per mantenere la coesione europea. E poi ha aggiunto: la Germania con la presidenza di turno si trova di fronte a un'enorme sfida. Visto che parlavamo di Banca Centrale Europea, previsioni sul PIL, vediamo anche come vanno le borse. Allora, oggi la giornata le vede tutte deboli, ma non in maniera significativa o preoccupante. Mezzo punto percentuale di calo Milano, mezzo punto Parigi, mezzo punto Francoforte, mezzo punto Londra e invariato invece il Dow Jones. Bene Mediobanca più 2,20, Prismian più 1,80, Terna più 1,30 come Italgas. E poi Fineco Bank meno 3,60, Bipper meno 3, Amplifon meno 2,60, meno 2,20 Recordati, meno 1,70 Pirelli e Telecom, l'1,60 lo perde Unicredit, l'1,30 Banco BPM e Azimut, ma anche Saipem, l'1% il caro di Tenaris Generali e Intesa San Paolo. Ecco, adesso giustamente mi scrive qualcuno, dice: guardi che però bisogna tenere conto sulla scuola che tra settembre e novembre forse vi sarà una nuova ondata. Vabbè, allora che facciamo? Perché nel caso peggiore, parlo delle regioni con le amministrative, allora voti per le amministrative, poi riapri la scuola, poi a questo punto però se c'è il dubbio della seconda ondata cosa fai? La tieni chiusa, ma rimandiamoli direttamente al 2021. Ok, così il conto alla rovescia, invece che durare da qua al 14 settembre, ce lo teniamo tutto l'anno, con grande gioia degli amanti di Pino Daniele, pace all'anima sua, non ha nessuna responsabilità su questo ovviamente. Andiamo avanti per quello... Va bene... Qualcuno dice che parlo della scuola perché me l'ha ordinato Bonomi. E come no? Via WhatsApp. Ha detto parla della scuola, Barisoni. Non sapete che funziona così. Andiamo avanti, dicevo, per quello che riguarda l'Italia e il commercio con l'estero. Oggi ci sono i dati di aprile. Allora c'è stato, come era immaginabile, un crollo record dell'export e anche delle importazioni. Purtroppo però ha fatto peggio l'export delle importazioni per un semplice motivo: che le importazioni di materie prime, intese soprattutto come petrolio e gas, sono continuate, quindi la bilancia commerciale è andata per la prima volta da anni in negativo, cioè abbiamo importato più di quanto non abbiamo esportato, ma non perché abbiamo importato chissà quali beni, semplicemente per quella che si chiama componente energetica. Infatti al netto dei prodotti energetici, di cui siamo importatori quasi netti, diciamo, ci sarebbe un surplus di 105 milioni di euro. Però faccio notare che mentre ad aprile 2019 la bilancia commerciale era in positivo di 6 miliardi e 400 milioni, cioè un anno fa la differenza tra, ad aprile di un anno fa la differenza tra quanto esportato e quanto importato era a vantaggio delle nostre esportazioni per 6 miliardi, adesso siamo sotto di 4 miliardi, cioè abbiamo importato merci rispetto a quello che abbiamo esportato per 4 miliardi in più. E infatti le esportazioni hanno fatto meno 41% su base annua, le esportazioni hanno fatto meno 33% su base annua. Ripeto, c'è la componente energetica. Per quello che riguarda il nostro export, sono cresciute solo le esportazioni di farmaci rispetto a un anno fa, più 16,7%. Esportazione di articoli farmaceutici, sappiamo che c'è il distretto biomedicale a Mirandola, diciamo nella zona di Mirandola, ma anche qui nel nord-ovest milanese verso Belgio, Stati Uniti, Francia e Regno Unito. E poi il mondo delle costruzioni che lancia l'allarme, meno 67,8% della produzione delle costruzioni nel mese di aprile, con un allarme su 800.000 occupati nel mondo delle costruzioni. E l'INPS fa notare come nei primi tre mesi del 2020, attenzione perché qui valevano anche gennaio e febbraio, non solo marzo, c'è stato un calo delle assunzioni del 24% nel settore privato, 1.338.000 persone, quindi un 24% in meno rispetto ai primi tre mesi del 2019. Oh, adesso vedo che c'è il genio che mi scrive: guardate che la colpa della scuola, chiusura delle scuole è solo vostra, siete voi aver dipinto una peste che non è mai esistita, nessuno avrebbe potuto ritornare al lavoro, nemmeno gli insegnanti, è colpa vostra. Sì, va bene, dai, infatti 34.000 morti ce li siamo inventati noi. Guardi che un conto è avere attenzione per gli elementi di sicurezza sanitaria, tutti siamo attentissimi, il tema scuola, ma non ci voglio tornare oggi, è mortificante per il nostro paese, no, guardando soprattutto come si sono mossi gli altri paesi. È ovvio che un po' di rischio te lo devi prendere, ma non capisco perché Francia, Spagna, Gran Bretagna siano tutti, abbiamo tutti pianificato rientro con varie modalità a scuola, e noi stiamo ancora dicendo che dovrebbe riaprire il 14, ma mi raccomando, con calma, fatecelo sapere con calma. Possibilmente fatecelo sapere i weekend prima della riapertura, così uno almeno si organizza, se sa se deve stare, rientrare il pomeriggio per preparare i libri oppure no. Tanto le persone, le famiglie non mica lavorano, mica hanno impieghi, mica hanno appuntamenti di lavoro, le donne ormai, diciamo, sappiamo che non sono mica occupate in questo paese. Cioè non so che cosa si immagina, che viviamo tutti quanti di reddito di emergenza o reddito di cittadinanza, che per cui è uguale che tu mi apra la scuola un giorno piuttosto che l'altro. Comunque Tridico, ineffabile presidente dell'INPS, parla di 360.000 domande per il reddito di emergenza, cioè che interessa, scusatemi, 350.000 persone, mentre il bonus centri estivi interesserebbe 400.000 famiglie. Sì, bisogna vedere poi quante sono quelle le domande effettivamente arrivate. Sui bonus domestici di 500 euro sono arrivate 300.000 domande non ancora pagate, perché stiamo raccogliendo le domande, saranno pagate da tra pochi giorni. E sulla cassa integrazione invece dice che sono state pagate tutte le domande regolari, aggiungo io, due terzi di quella ordinaria le hanno anticipate le imprese. Tridico. Abbiamo avuto lo strumento della cassa integrazione con tutte le difficoltà, il sindacato, voi, le persone, come dire, gli operatori che conoscono bene che cos'è lo strumento cassa integrazione, sa che è una procedura lunghissima, che si esplica durante mesi, perché prima bisogna lavorare oppure non lavorare, dichiarare le ore di sospensione, a consuntivo arrivare a dichiarare l'IBAN soltanto dopo il mese successivo a quello di sospensione. Ebbene, l'istituto al 31 di maggio aveva pagato tutte le domande regolarmente presentate. Si tratta di prestazioni per, al 31 di maggio, circa 4,2 milioni di pagamenti al 31 di maggio. A giugno noi continuiamo a ricevere domande, sì, anche dei mesi passati, sì, e le continuiamo a ricevere. Ne abbiamo ricevuto a giugno 800.000 circa di SR41, ne abbiamo pagati circa 650.000. Abbiamo una giacenza del corrente molto piccola, di circa 123.000 lavoratori ancora da pagare, di cui abbiamo gli SR41, cioè i documenti con l'IBAN, soltanto appunto nel mese successivo a quella di sospensione del rapporto di lavoro. E poi il nuovo modello di CIG in deroga. Allora sapete che, viste le difficoltà a ottenere la cassa integrazione in deroga che il governo aveva giustamente previsto, però si era creato un problema. Siccome la cassa integrazione ordinaria e straordinaria già ce l'avevamo prima, in deroga era appunto in deroga, valeva fino a un dipendente, ogni regione, vi era il caos, diciamo, normativo e procedurale delle varie regioni, per cui ogni regione aveva pratiche diverse e procedeva con velocità diverse o lentezze diverse, al che il governo poi nel nuovo decreto ha permesso all'INPS di anticipare fino al 40% della cassa integrazione in deroga, E ha detto Tridico che oggi è partito il nuovo modello di domande della cassa integrazione in deroga e nelle prime 5 ore avevano già ricevuto 2.000 domande. Oggi è partito, nella disattenzione di tutti, il nuovo modello della cassa integrazione. Con la deroga direttamente fatta all'INPS, da oggi parte, dal 18 di giugno, parte il nuovo modello di domanda di cassa integrazione in deroga, direttamente all'istituto. Soltanto oggi abbiamo ricevuto più di 2.000 domande di cassa integrazione in deroga. Oggi, dopo 5 ore dall'attivazione. Oggi abbiamo anche attivato per la prima volta nella storia dell'istituto l'anticipazione del 40% della cassa integrazione, come previsto dal decreto rilancio. Oh, adesso parlo anche del bonus vacanze. Dunque, a chi mi scrive, però è difficile non rispondere, è l'unico motivo per cui ve ne frega dell'apertura delle scuole che non sapete dove parcheggiare i figli, vergognatevi. Guardi, allora le spiego una cosa, per l'idea di democrazia e di Stato che ho io, poi uno può non condividerla, il principale elemento che va a ridurre le disuguaglianze sociali, cioè la sfiga o la fortuna che hai nel nascere in una famiglia o in un'altra, in un territorio, in un altro, in una latitudine o in un'altra, in questo paese, il principale strumento, finché non raggiungi la maggiore età, si chiama scuola. Non è un problema di parcheggio, lei non sa neanche di cosa sta parlando. I figli sono stati parcheggiati a casa con le lezioni a distanza, se avevano il tablet o no, con le mamme accanto a dargli una mano, perché non era neanche semplice, se riuscivano a farlo oppure no. Questo è il parcheggio. La scuola, nella mia visione, ha un'accezione leggermente più alta, riduce o dovrebbe ridurre, quando funziona bene, soprattutto visto che è anche pubblica, le disuguaglianze di partenza, permettendo a chi non ha avuto la fortuna di avere tanti libri in casa di acquisire una cultura e competere più o meno alla pari con chi è nato in maniera più fortunata. Questa è la missione sociale della scuola, altro che parcheggio. No, giusto per ricordarci l'ABC, poi ragioniamo sugli insegnanti, Francia, le aperture, plexiglass, non plexiglass, ma non perdiamo di vista l'obiettivo alto, che non è dove metto mio figlio, ma è come crea una società il più possibile meno diseguale, perché ripeto, sono la prossima volta che sento parlare in un convegno di l'importanza del capitale sociale, del capitale umano, ecco, metto mano alla pistola. Va bene, oggi invece si è tenuto l'Innovation, poi parlerò anche del bonus vacanze, l'Innovation Days qui al Sole 24 Ore, e quindi sull'innovazione, altro tema su cui far ripartire questo paese. Quindi si è fatto il punto su alcuni settori nella prima parte, quindi cibo, moda, metalmeccanico e biomedicale. Ascoltiamo allora su biomedicale Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria. Noi abbiamo un settore farmaceutico in Italia che è il primo in Europa per la produzione di farmaci, e però Scaccabarozzi ha ricordato che l'opzione di un unico maxi laboratorio a livello internazionale per creare il vaccino non è una strada percorribile. Fin da gennaio, quando il problema si è presentato in Cina, siccome il coronavirus, anche se modificato, non è un virus conosciuto perché esiste dagli anni 60, è stata messa a disposizione della comunità scientifica mondiale la sequenza virale. Quindi c'è stata subito una coalizione tra i grandi gruppi, tra istituzioni pubbliche e private, fin dal World Economic Forum di Davos, per andare alla ricerca di un vaccino. Perché non si può andare su un vaccino solo? Intanto perché ci sono varie tipologie di vaccini, e poi perché il rischio troppo alto, perché se poi la ricerca su questo vaccino fallisce rischiamo di rimanere senza. A oggi vi do un dato, è vero che sono tanti e forse molti di questi non arriveranno, però se andate sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che fa un tracking dei progetti di vaccini che ci sono aperti, ce ne sono 136. Di questi 8 sono già in sperimentazione sull'uomo, uno è già in fase 3, quindi abbastanza vicino, però io sono abbastanza ottimista, ce ne sono 4-5 che sono messi molto bene. E poi altro settore appunto trattato oggi, moda, il presidente di Confindustria Moda Claudio Marenzi. Continua questa problematica, diciamo che noi nel primo trimestre abbiamo In generale abbiamo accusato un calo di fatturato tra il 25 e il 50%, una media del 36%, il 50% delle aziende sono rimaste tra il 20 e il 50% come fatturato nel primo trimestre. Ma il dato direi più negativo è la raccolta ordini, cioè per cui sull'invernale prossimo, che in teoria dovrebbe essere già un po' fuori dalla pandemia. Lì abbiamo ricevuto un calo di anche qua tra il 35 e il 50% e questo ci preoccupa molto. La moda è stagionale, per cui è ciclica. Questo stop di 3 mesi praticamente influirà negativamente non solo su questa primavera, ma sull'inverno prossimo e la prossima primavera, per cui almeno fino al primo semestre 2021, con delle ripercussioni anche nel secondo semestre. Ancora. Invito alcuni ascoltatori che continuano a dirmi: guardi che le scuole pollaio le abbiamo solo in Italia, andate a vedere i dati di Francia e Spagna. A me non risulta che il problema siano solo le aule pollaio. Dopodiché a me basta sapere come ha intenzione di risolvere il problema. Abbiamo avuto ospiti in questo programma, in questa radio, il ministro Azzolina, Patrizio Bianchi, che è responsabile del comitato tecnico, non quello scientifico, l'altro. Io qui a Focus Economia è venuto Miozzo, responsabile del comitato tecnico scientifico, che ha detto che lui non ha mai dato indicazione del plexiglass. Insomma, tutti li abbiamo sentiti, però la politica deve avere il ruolo di sintesi tra la parte tecnica, la parte sindacale, e poi la politica deve fare la sintesi. Questo deve saper fare la politica. Va bene, andiamo avanti. Il settore Federmeccanica invece, altro settore che ha subito un impatto fortissimo e che da noi vale 430 miliardi di fatturato. Alberto Dal Poz, presidente di Federmeccanica. C'è un elemento che è assolutamente chiaro e che contraddistingue questa crisi 2020 in modo assolutamente particolare e comunque molto diverso rispetto alla crisi del 2008 generata sui mercati finanziari e alla seconda ondata intorno al 2011. È una crisi assolutamente simmetrica, tocca in modo assolutamente profondo tutti i nostri paesi export principali, Germania in primis, a seguire la Francia e indubbiamente gli Stati Uniti, che sono ancora in una situazione di lockdown molto, molto profonda. Federmeccanica stima più vicina almeno 25 la perdita di quest'anno, proprio perché ci sono alcuni settori fondamentali come l'automotive, come l'aerospazio, come la macchina utensile, i cui segnali di ripresa sono molto difficili da quantificare. Quindi penso che ci dovremo preparare ad avere un anno difficilissimo, ma speriamo soprattutto nei mercati di nostro riferimento incomincino a verificarsi dei segnali di ripresa, proprio perché su quelli potremo reinventarci un futuro del quale tutti abbiamo bisogno. Adesso andiamo sul meteo e poi partiamo con la quinta giornata degli stati generali e quindi mondo dell'agricoltura questa mattina e mondo del turismo e spettacolo il pomeriggio. Dunque, qualcuno mi dice: beh, è ovvio che se lei dice che per i genitori è importante sapere quando portare i figli a scuola, uno pensa a un parcheggio e pensa che l'indicazione sia arrivata da Confindustria. Non capisco il nesso logico causale. Ho detto solo: saperlo è importante perché nella nostra vita non fai solo il genitore, tendi ad avere anche un lavoro se ti va bene in questo periodo, e quindi l'organizzazione del lavoro necessita di sapere quando e in che modalità andrà un ragazzo o un ragazzino, un bambino a scuola. Non mi sembra di aver detto una cosa, diciamo, da rivoluzione copernicana, eh? Però evidentemente alcuni non la vogliono capire. Andiamo sul meteo, va là. State ascoltando un programma offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. Allora, gli stati generali oggi, questa mattina l'incontro col settore agroalimentare, sappiamo un settore che ha avuto tensioni anche proprio contingenti, ricordate tutto il tema dei braccianti, dello sfruttamento dei braccianti, della regolarizzazione dei braccianti, le tensioni sui prezzi dell'ortofrutta che abbiamo registrato anche come Istat, e dicono gli agricoltori, guardate che noi, cioè lì è come sempre sta cavolo di filiera che ci guadagna qualcuno ma non nell'agricoltore, e poi una filiera che dai campi agli scaffali vale 3.600.000 occupati, 538 miliardi. Allora sono intervenute tutte le associazioni, cito la Coldiretti che ha stimato perdite in 12,3 miliardi al settore agricolo per l'effetto del taglio alle esportazioni e poi le chiusure di bar e ristoranti e il crollo dei flussi turistici. Il 57% delle 730.000 aziende agricole nazionali ha avuto una diminuzione dell'attività. Una notizia positiva è la stima, diciamo, che l'agricoltura con un'adeguata formazione e semplificazione può offrire agli italiani almeno 200.000 posti di lavoro. E poi le proposte, e Confagricoltura, se ho ben capito, invece ha chiesto riduzione IVA e anche cuneo IVA sui prodotti agricoli ed il cuneo fiscale sul mondo del lavoro in modo da rilanciare i consumi. Siamo in collegamento con il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, buonasera. Buonasera a tutti voi. Allora, le faccio l'obiezione che potrebbero fare: avete chiesto riduzione di tasse, questo volete, perché so già l'obiezione di alcuni ascoltatori, o in realtà c'è una visione diversa, Giansanti? C'è una visione completamente diversa. Noi abbiamo chiesto un qualcosa che possa far ripartire i consumi per mettere più soldi nelle tasche dei consumatori e spenderne di meno quando andranno a comprare i prodotti dell'agricoltura. Abbiamo chiesto che sui prodotti dell'agricoltura che vengono venduti in grande distribuzione possa essere applicata l'aliquota più bassa, e questo ovviamente significherà pagare meno tutti i prodotti dell'agroalimentare presenti oggi nelle linee di vendita della distribuzione organizzata o della grande distribuzione, piuttosto che aumentare il cuneo fiscale a favore ovviamente dei lavoratori, per cercare ovviamente di riattivare nel minor tempo possibile quel circuito virtuoso che è il consumo. Qui, se non facciamo ripartire velocemente il consumo in Italia, è evidente che la macchina, l'impresa, la macchina che deve produrre gira a vuoto o gira a scarto minimo. Noi abbiamo necessità di far ripartire nel minor tempo possibile i consumi per far ripartire il ciclo economico. Giansanti, dopo il traffico vorrei capire un'altra cosa. Allora, mettiamo che si vada dietro la vostra proposta riduzione dell'IVA, visto che c'è un ragionamento nel governo anche IVA da parte sui consumi. Però l'obiezione che sta fatta in questi giorni è: attenzione, noi abbiamo visto uno strappo sui prezzi nei prodotti agricoli che solo in parte è attribuibile alla difficoltà, per esempio, nella raccolta. In altra parte abbiamo avuto la netta sensazione che qualcuno ne abbia approfittato, essendo i negozi di ortofrutta o comunque i supermercati le uniche cose aperte nei mesi del lockdown. Come si fa a garantire che anche un'eventuale riduzione dell'IVA, visto che porta minor gettito per le casse dello Stato, non vada poi nelle tasche, diciamo, dell'intermediazione anche nel vostro settore, quindi grossista, distributore, e vada invece poi a produrre un beneficio effettivo per il consumatore, per me, cioè che vado a comprare la zucchina, le ciliegie o quello che è, a un prezzo più basso, e quindi teoricamente dovrei riuscire a comprare di più sostenendo un po' di più i consumi? La risposta, per favore, dopo il traffico. Hai visto il mio nuovo Xiaomi Mi 10? Ha la fotocamera da 108 megapixel e fai video in 8K. Ah, vediamo. Guarda questo, è Luca sulla moto d'acqua. Che dettagli, le onde, gli spruzzi. È Luca che cade in acqua. Ora lo condivido e in un attimo lo vedranno tutti. Ho la rete top quality Wind 3. Guarda l'estate in modo nuovo. Con Wind 3 Unlimited puoi avere Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Lite con giga illimitati. Da 1,99€ in più al mese, anche con anticipo zero. Per info, anticipi, metodo di pagamento, costi e termini dell'offerta, ti aspettiamo nei Wind 3 Store. Focus Economia. Allora, presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, ammesso e non concesso che si riesca ad arrivare alla vostra proposta, cioè riduzione dell'IVA sui generi agricoli, quindi ortofrutta, per tenere i consumi, per mantenere i consumi o dare anche una ravvivare i consumi. Come facciamo a essere sicuri che quello che non intaschiamo come Stato e quindi come cittadini di IVA, e che serve comunque anche per i conti pubblici, non vada a finire non in un beneficio del consumatore finale, ma in un beneficio, a mio avviso, del tutto inutile e improprio, magari della filiera distributiva, cioè dal campo al grossista al distributore? Beh, certamente facendo dei controlli. È evidente che noi agricoltori avremmo potuto chiedere delle risorse proprie per il settore. Noi in questo momento riteniamo che per riavviare i consumi, pensiamo al vino, noi oggi abbiamo un settore importante, fondamentale, che è quello del vino piuttosto che il florovivaismo o la pesca. Sono tre comparti completamente fermi. Potremmo chiedere risorse da destinare solamente ai nostri agricoltori. Abbiamo ritenuto che comunque abbiamo comunque un futuro da dover gestire, abbiamo comunque degli stock in magazzino da dover vendere. E allora, per rilanciare appunto questa attività, l'idea è quella di abbassare l'IVA proprio per cercare di far venir voglia da parte dei nostri consumatori di comprare qualcosa di più. Poi certo che da parte di chi non è il settore agricolo può esserci la tentazione magari di modificare i prezzi, ma io credo che esistano sistemi di controllo proprio per prevenire che questo possa accadere, per trasferire quindi quel vantaggio fiscale direttamente in carico ai consumatori. Senta, un'ultima domanda, Gian Santi, che non c'entra in maniera diretta con l'incontro di oggi con Conte, ma che è stato un tema fortissimo per voi: la regolarizzazione dei lavoratori. Allora, qualcuno ha detto, rispetto alle stime di 200.000 persone, aver visto decine di migliaia, ma non oltre decine di migliaia, di regolarizzazioni è un po' poco. Lei che idea si è fatta sull'andamento delle regolarizzazioni? Ma guardi, io mi farò un'idea definitiva alla fine di luglio, quando avremo i dati certi. Oggi i primi dati dimostrano che le regolarizzazioni riguardano prevalentemente colf e badanti e una quota minima per ora dedicata all'agricoltura. Noi l'avevamo segnalato e l'avevamo detto. Ora ovviamente con la riapertura delle frontiere, con la libera circolazione delle persone, le aziende hanno iniziato ovviamente a ritrovare tanti collaboratori che erano bloccati in Est Europa, stanno tornando anche dal Nord Africa e quindi piano piano si sta tornando alla normalità. Lei si aspetta tensioni sui prezzi dell'ortofrutta nei prossimi mesi o, diciamo, superate l'emergenza, quella fase completamente emergenziale del lockdown, grazie appunto anche a quello che ci raccontava sull'arrivo dei lavoratori, si attende che vi sarà una stabilizzazione? Ma io in senso generale non mi attendo a fluttuazioni del mercato, fatto salvo due fattori fondamentali. Uno, la ripresa ovviamente della diffusione della malattia del coronavirus, certo, se ci sarà una fase 2, e due, bisogna vedere come andranno trattative in corso tra Stati Uniti ed Europa, sta dicendo Boeing Airbus da una parte, e dall'altra invece la trattativa tra Stati Uniti e Cina, perché c'era un negoziato definito tra Trump e Xi Jinping il quale obbligava la Cina a comprare entro la fine del 2020 una quantità importante di prodotti dell'agricoltura americana. Se questo ovviamente non accadrà, ritorneremo a vivere momenti di guerra commerciale e questo ovviamente potrebbe determinare una fluttuazione dei prezzi. Allora, grazie anche a Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura. Vi do la chiusura di borsa e poi dopo daremo i dati della Protezione Civile che stanno già in parte arrivando. Meno 0,50, praticamente poco variata a Milano, ha peggiorato nel finale Parigi, meno 0,70, Francoforte meno 0,80, Londra mezzo punto di percentuale di calo, Dow Jones meno 0,40, Mediobanca guadagna l'1,80. Come Prismian, l'1,30 la guadagna Stima Electronics, l'1,20 Italgas assieme a Terna, perde Finecobank il 3,40, B per meno 2,70 come Amplifon, il 2,20 il calo di Recordati, l'1,80 quello di Unicredit, Telecom, il Banco BPM, Pirelli meno 1,60, Azimut meno 1,30 come Nexi e Generali, Exore, Intesa San Paolo e Saipen e Tenaris hanno perso un punto percentuale. GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Il nuovo ciclo di Un luogo, una storia, ambientato durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Gli sbarchi degli anglo-americani nelle spiagge della Sicilia e Anzio, Cassibile e l'armistizio dell'8 settembre 1943. Milano, Firenze, Napoli, Genova e Torino. Il viaggio lungo la linea gotica da Massa alle Marche. Sono Daniele Biacchese, vi narrerò le piccole storie che attraversano i posti e la grande storia, ogni venerdì in podcast su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Ciao, siamo le radio italiane, tutte insieme per costruire la più grande avventura del 2020. I love my radio. Aiutaci a scegliere la più bella tra le canzoni italiane che abbiamo suonato dal 1975 ad oggi. E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'. 45 successi firmati da 45 grandi artisti. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Alla fine dell'estate celebreremo insieme con un evento speciale la storia della radio e della musica italiana. Ti sembra normale che resti svegli a corteggiarti per ore? I love my radio. Tutte le radio unite per l'Italia. Vota la tua canzone preferita su ilovemyradio.it. State ascoltando un programma offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. Diciotto e nove minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Sto guardando i dati della Protezione Civile. Allora, sono tornati a salire in Lombardia i ricoverati in rianimazione, 5 più di ieri, 60, cioè 5 di ieri nel paese, 60 in Lombardia, 1 più di ieri. E quindi invece i malati, quindi parliamo dei dati clinici, i malati ricoverati con sintomi scendono di 246. I decessi sono purtroppo saliti a 66 dopo che ieri ve ne erano stati 43, martedì 34 e lunedì 26. C'è un aumento dei decessi di più 0,2%. I ricoveri, appunto, meno 241, terapie intensive più 5. I contagiati, qui sappiamo che il dato però è molto molto suscettibile ai tamponi fatti, sono 333. In tutto il paese, dei decessi più della metà sono in Lombardia, 36 le persone decedute in Lombardia, e anche sui nuovi casi positivi i due terzi sono in Lombardia, 216. Tra l'altro però ho visto che dal punto di vista ecco, l'1,9% dopo il test sierologico, 54% dopo il test sierologico. Comunque, vabbè, il dato non è bello sui decessi, e devo dire anche, diciamo, dopo settimane intere di calo nelle terapie intensive, c'è stato un leggero aumento di 5 ricoveri. Allora, gli stati generali, abbiamo parlato nella prima ora del programma con il presidente Confagricoltura, perché questa mattina era il mondo agricolo, nel pomeriggio invece il mondo del turismo e non solo, anche della cultura. Dunque, nel frattempo c'è il tema del bonus vacanze, perché sono arrivate le regole per chiedere il bonus vacanze. I redditi ISE non superiore a 40.000 euro dal 1 luglio fino al 31 dicembre. Si potrà chiedere l'agevolazione destinata a pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed and breakfast. Deve esserci la dichiarazione sostitutiva unica, la DSU, con un ISE sotto la soglia di 40.000 euro, e in quel caso lo si chiede, e arriverà un QR code e un codice univoco per fruire del bonus. Fino a 500 euro se la famiglia è composta da almeno 3 persone, il limite è 300 euro in caso di 2 componenti, 150 euro se un single. Il bonus si utilizza per l'80% sotto forma di sconto per il pagamento del servizio turistico e il 20% come detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Va speso in un'unica soluzione e quindi per i servizi resi da un'unica struttura ricettiva va documentato con fatture, documento commerciale, scontrino ricevuta. Si può, per richiedere l'agevolazione bisogna installare l'app IO e serve anche per accesso all'identità digitale SPID e la carta d'identità elettronica. E poi la struttura ricettiva dovrà verificare la validità del bonus inserendo il codice univoco, il codice fiscale del cliente e l'importo del corrispettivo dovuto. In caso di esito positivo, il fornitore può confermare a sistema l'applicazione dello sconto e il fornitore recupererà lo sconto fatto sotto forma di credito di imposta in compensazione col modello F24. Mi sembra un po' complicato, però solo a leggerlo ci ho messo 3 minuti. Vabbè. Marina Lalli, neo presidente di Federturismo Confindustria, buonasera. Buonasera a lei. Anche per lei è complicato, comunque per evitare frodi e furbetti era l'unico modo possibile? Parlo del bonus vacanze. Sì, devo dire che effettivamente il sistema è macchinoso, non dei più agili da utilizzare. È chiaro che l'intento era proprio quello che dice lei, scoraggiare un uso non voluto. Però sì, questa è una misura che sin dal primo momento, come operatori del settore, ci ha convinto poco. Adesso abbiamo la modalità di utilizzo, ci conviveremo e naturalmente nel frattempo spingiamo per altre misure che magari per quello che ci serve riteniamo possono essere più utili. Devo dire che oggi abbiamo Ha appena finito di incontrare il Premier Conte, giusto? Perché era nel pomeriggio. La giornata. Ecco, che cosa è finito proprio in questo momento. Allora, faccia la cronista, così non la paghiamo però, No. Devo dire il Premier e anche il Ministro Franceschini erano con noi e hanno ascoltato tutte le categorie del turismo per buone 4 ore. Ci hanno quindi dedicato tutta l'attenzione e ci hanno anche rassicurato sul fatto che sono perfettamente consapevoli del fatto che abbiamo bisogno di altre misure rispetto a quelle che comunque devono passare adesso con il decreto rilancio, perché soprattutto il turismo sta soffrendo in modo particolare, ha dei tempi di ripresa molto lunghi e quindi abbiamo avuto tutte le rassicurazioni in questo senso. E di conseguenza conviveremo appunto con il bonus vacanza, che sarà una delle misure, e ci auguriamo che presto ne avremo davanti delle altre. Ecco, oggi il Centro di Studi CST Firenze ha stimato che questa sarà la peggiore estate degli ultimi 20 anni. Non so cosa successe 20 anni fa, andrò a rivedermi come fu l'estate del 2000. Però un calo di 12,8 milioni di viaggiatori in meno e 56 milioni di prenotamenti in meno rispetto all'anno scorso, 3 miliardi di fatturato in meno, di cui il 52% per l'attività extra alberghiera e il 48% per il comparto alberghiero, che si prevede alla fine dell'anno fare un meno 28,7%, l'extra alberghiero farà un meno 23,7%. Come pensate di traghettare un'estate così difficile, ammesso che non sia peggio d'autunno? L'estate è veramente pessima, anche perché lei ha parlato appunto Centro Studi di Firenze, delle città più grandi, Firenze, Roma, Venezia, ma tutte le città abituate a funzionare con un numero di turisti stranieri ben oltre la media nazionale del 51%, oggi sono in totale crisi, noi lo vediamo, le nostre città sono vuote e quindi questo significa che tutto l'indotto anche del turismo andrà a soffrire in modo veramente inaccettabile, e quindi questi sono i problemi con i quali dobbiamo convivere. Spero che le sue stime siano giuste, perché onestamente io ne ho anche di peggiori, e quindi tutto sommato ci auguriamo di riuscire a contenere la perdita in suoi numeri. Mi scusi Presidente Lalli, un'ultima domanda, me la suggerisce un ascoltatore: ma non si poteva portare in detrazione al 7.30? Cioè, chiaro che non mica fai furbo quando fai la dichiarazione dei redditi, porti solo un voucher e cercare di portare in detrazione. Non era più semplice arrivare a una detrazione in fase di dichiarazione dei redditi? Sotto una certa soglia, ho capito, dici vai a avvantaggiare gli evasori, chiedi l'ISE. Adesso l'ISE non mi sembra la cosa peggiore, però una volta che il tuo ISE è corretto potevi semplicemente portarlo in detrazione, così nella mia somma ignoranza domani c'è telefisco domani Prego. Avevamo anche provato a fare da trade union con un accordo anche con un'azienda, diciamo, particolarmente attiva in questo mondo, soprattutto anche con l'ausilio di tutta la parte digitale, però a quanto pare le regole ministeriali non permettevano questi strumenti più moderni, almeno non per farlo in tempo utile per il primo di luglio, così come ci si era proposti, e quindi evidentemente in base alle regole questo sarà stato l'unico metodo e l'unica spiegazione che mi do anche io. Allora, e questo per quello che riguarda il mondo del turismo, vedo tanti messaggi su questo. Adesso qualcuno mi dice: guarda che 20 anni fa ci fu l'attentato alle torri. Oddio, era 2001, quindi forse il dato sul turismo, la peggiore estate degli ultimi 20 anni, sarebbe più corretto dire degli ultimi 19. Questo ci può stare, perché chi era in diretta e noi lo eravamo si ricorda bene cosa capitò dopo quel settembre e nei mesi e anche all'inizio poi del 2002. Grazie anche appunto alla Presidente per quello che riguarda il settore turismo di Federturismo Confindustria Marina, Lalli, o il traffico. E poi, visto che parliamo di turismo, come non tornare a un classico, cioè tornare al mondo pre-Covid e occuparci di Alitalia? Eccoci accontentati. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta: non temono nessuna salita, superano ogni ostacolo, e quando non c'è una strada se ne inventano una. Gli italiani sono inarrestabili come Jeep. Ecco perché produciamo qui le nostre auto. Ripartiamo insieme, Italia. Solo a giugno zero anticipo, zero interessi, zero rate nel 2020, e inizia a pagare a gennaio 2021. Jeep Renegade da €299 al mese e Jeep Compass da €369 al mese. TAN 0, TAEG 418. Offerta soggetta ad approvazione FCA Bank. Info e condizioni su jeepofficial.it. Jeep, there's only one. Focus Economia. Oh, money, money, money. Beh, insomma, parliamo di Alitalia, un grande classico di questo programma. Ripeto, un po' come vedere, non so, il traffico di nuovo a Milano. Mi dà la sensazione che il mondo stia tornando a una forma di normalità. E appunto tornare a occuparsi di come salvare dopo 11 anni di gestione privata l'Alitalia, e mi dà un senso di déjà vu, ma anche di normalità. €3 miliardi la dotazione. Ora attenzione che la Lufthansa ha ricevuto €9 miliardi, l'Air France €6 miliardi. Questa volta non è il casus Alitalia, è che, diciamo, l'Italia era partita ben prima del lockdown e del Covid, si era portata avanti, diciamo. Flotta di 100 aerei, a guidarla dovrebbe essere l'attuale Chief Business Officer della compagnia, Fabio Lazzarini. Qui mi espongo, l'abbiamo avuto ospite molte volte quando stava in Emirates, mi sembra persona molto competente. Ho letto indiscrezioni che dico, ma forse però non ha la giusta sponsorizzazione del, diciamo, partiti, politica. Spero che veramente sia una bufala, perché già la competenza non mi sembra che proprio così vada per la maggiore ogni tanto nella compagine governativa. Ecco, per favore scegliete anche qualcuno che sappia, non qualcuno che sia amico. Dunque, si chiamerà l'Italia TAI, Trasporto Aereo Italiano, e non diciamo TAI Airways però. Arriva questo annuncio dopo 3 anni di amministrazione straordinaria. Dal 1974 ad oggi sono piovuti su Alitalia, compresi questi, 12 miliardi, cioè 9 più 3. E la NewCo integrerà anche alcuni asset di Air Italy. Allora, se torna l'Italia e torna un classico di questo programma, non può che tornare la classica voce di Alitalia, Gianni Dragoni. Buonasera Gianni. Buonasera. Sei contento? Buonasera agli ascoltatori. Stiamo tornando alla normalità. Allora, Una nuova normalità. Anche sì, qui. Ma una vecchia normalità se parliamo di Alitalia. Allora, dimmi la NewCo Alitalia TAI, va bene, il nome mi interessa fino a un certo punto. Trasporto aereo italiano, oltre 100 aerei, e chi la guiderà? Ripeto, io per come l'ho conosciuto ho massima fiducia in, in Lazzarini, ma non per altro, perché mi è sempre sembrato uno competente. Vai, Gianni. Dunque, sulle nomine, proprio le nomine sono un punto di scontro, tu lo hai anche anticipato. Un punto di scontro, Lazzarini è uno dei candidati appoggiato dal ministro Franceschini, della ministra dei trasporti De Micheli. I 5 Stelle si sono messi di traverso perché avevano indicato Zeni, il commissario Leo Grande, e quindi pensavano che fossero loro che avrebbero potuto seguire anche nella nuova società. Comunque c'è anche la voce del MEF, la partita non è ancora, diciamo, chiusa, ci potrebbero anche essere delle novità, però diciamo in queste ore c'è un momento di stallo, proprio perché più che discutere c'è creato un nome anche di caos, ho ben visto, no? Sì, poi c'era il nome di Altavilla, manager Fiat, diciamo autorevole, digiuno di trasporto aereo, ma un nome autorevole, e sembra che questa candidatura sia difficile da essere poi concretizzata, anche perché un manager sul mercato ha dei compensi, diciamo, importanti, elevati. Forse nella situazione dell'Italia diciamo sarebbe difficile potergli assicurare, salvo un caso di successo, che insomma credo che pochi potrebbero scommettere un euro sul successo anche di questa nuova l'Italia, anche se avrà 3 miliardi da spendere. Ecco, senti, da questo punto di vista, al di là del nome, come sarà la nuova l'Italia? Appunto, questo la ministra De Micheli dice avrà 105 aerei, prima il ministro Patuanelli, il MISE, diceva ne avrà 92. Allora come si giustifica perché 92, perché 105? Sono dei numeri. Allora, 92 era basato su un'idea che aveva lanciato l'attuale direttore generale Zeni con il commissario Leo Grande come numero di partenza della nuova compagnia. Poi il numero 105 gira al Ministero dei Trasporti, credo che possa derivare da altre valutazioni, probabilmente secondo quello che mi risulta, valutazioni fatte anche da Lazzarini, che è il direttore commerciale dell'Italia ed è in contatto con la ministra dei trasporti De Micheli. In realtà questo piano deve ancora essere fatto, deve essere precisato, si parla solo di ipotetiche linee guida, come quella la ministra De Micheli ha detto incontrando i sindacati di Eritali, si potrà valutare anche di assorbire una parte, ma Eritali aggiungerebbe 1.400-1.600 dipendenti a un numero di più di 11.000, tra i quali purtroppo credo ci saranno degli esuberi. Ecco, su questo la CGIL, Filt CGIL, ha detto oggi: ci opporremo fermamente ed assumeremo una posizione di forte conflitto di fronte a qualunque piano con licenziamenti e spezzatino delle attività aziendali. E quindi già la CGIL dice l'attuale all'Italia deve passare, ci sono più di 6.600 lavoratori in cassa integrazione al momento, sugli 11.000, i sindacati, i confederali dicono però devono passare tutti i dipendenti nella NUCO, anche quelli in cassa integrazione, poi se ci sarà la possibilità di ripartire, perché oggi l'attività dell'Italia è solo il 10% di quella che era prima della crisi di virus, del virus, potranno gradualmente essere reimpiegati. È già difficile che il governo su questo non ha mai parlato, perché è un argomento delicatissimo per le persone e anche a livello sociale, ma quindi è un punto anche questo molto, molto discusso e ancora molto incerto. Allora, a proposito dei grandi classici, devo dire di questo programma, siccome la tassazione digitale necessita di un tempo e lo scontro Stati Uniti-Europa, lo affronteremo domani, domani sarà anche la giornata del Consiglio Europeo, ma diciamo a côté di questo affronteremo anche il tema della tassazione dei grandi colossi del web, che non ci sfugge ed è un problema di equità oltre che di far cassa in questo periodo. Grazie intanto a Gianni Dragoni, bentornato. È bello tornare al vecchio mondo. Intanto noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata.